Ho fatto un prodotto che mi ha fatto fino alla sera ancora. Di voi sapete come devo fare, solo che poi mi viene data corrente a fora, cioè, con questo si forma da primo lupuri che date che l'ha fatto, mi sono trovato su una cosa, però col canale le sabbiacque è subito valido e pulito. Compreso, la sabbia chi? Quello con la mola puro, niente, quello con la palla e mola, non fermano finire, non deve avventare davvero, la palla ogni volta attaccata la mola con voi, ma lei che ti piace a pelle? Come ne fa radio, signora? La salvo, ho un pacco di tappeto, la pirata si cala, c'è radio qui tutto pulita, con cui mi ha portato con sotto lui, invece ho tutto bella pulita, beh, fatto voi, minù. Volete che venga la mia via bizzarra, poi perché ha portato la sua parte del tappeto? Tutto subito vedendo, detto subito vedendo, invisibile, venuto in nita, la zappa, con cacchino di subacco, tutto passava. Beh, ma deve andare, qui c'è il macco. Beh, come mi dà poco sasa, su gonfa, per dire, scusa, perché non mi trovo, se non li passo il ritratto, minù. Perché è detto, una malattia, forse, o quello furio, se no, e non dai, non le idono, ma rabbio. Ogni 10 un uomo sa volare, tutto va finito, qui non si può basta un mese a fare niente uso più. Sono sempre su un pizzetto, là da corti, per cui mi pare che hanno i poli da cacacotto, anche cosa, ci danno una pellona. Una sola prima di che sono vedo, lo pari a una, capo con sacchippini, e poi hanno iniziato a rilento, e vedevo che mi la fretta le sacchina, perché la bomba, veramente, dopo mi sono detto, se mi ha pescito pure non viene questo pulma, ma capo mi sono pulma, però fa che sacrobattia, di girare, e fare, io devo andare a ruolo male, e non ci hanno fatto passare in cuore, questa frettola, fare sul giro del calaio, ma fini atti di padre, ma per me se che sono divino. E mi ha comprato, mi ha comprato un solare minù. Proprio qua, ma vedo me la porta un po' di risoio, se mi togli a le batterie o ti scanno. Io non le guidi più. Ha parlato con questo bricomano, prima ha poliato questo booster, ha poliato enorme, un torto 320 che era l'officina, sa? Proprio questa cosa non dico più, si avvicina nei crubai, se non devo caricare il telefono, mi stai dando sabbiamento, uno a 20 battolo, carica questa batteria, però non dico se questa cosa può avviare, dopo questa corrente ha preso, perché c'è una cosa enorme, della distruzione, se non mi dava più di tanto, e niente, e la poliato nuove vacca, una racchinata più peso, poca, allora se ne farà questa batteria, il suburma, capo staccale, già li ho staccati, invece, ma la Dubai hanno qui due fini, come, la devorata di fare, questa cosa non dico proprio, se è che sono altri booster, che lui guardi casi in nove, magari, e pone di motto, oppure se c'è un booster di un piccina, che è il calice di un elettrico, che mi calice elettrico appresso. Ma non ho fatto barricato fino a uno, sono fatto con caudale che è proprio avviamento, compreso, ma non dico se si può di giù perché ho fatto caricare il treno, non ne comprendo l'unica istruzione, che da quello aiuto lo collego e fare avviamento su pulma, è enorme questa cosa. No, perché penso un culo, se tra l'altro si è stata una batteria e piegato un subisetto con una cosa per una valigetta, l'ha attaccata e poi si è morto su pulma. No, il numero questo è piegato, ma l'ha attaccato lui a sta corrente, è piegato, con questa cosa che è la pesceria mi si può trovare, che cade un lineare, vedi, questa cosa. Allora l'ha attaccato e ha poi buttato il culo, non l'avevo collegato alla sua corrente, mi piace con gli avesi. No, è su me un manno, più due, è una cosa enorme, pare di una valigia di questa del viaggio, padre. Compreso, io vedo 12 volte, 24, ovviamente è anche ricarica batteria. Però, cosa ovviamente, non dico voi di nuci, scusate, voi delle istruzioni, no, non sono mai tagliata, mi sono guardato con internet, ma non mi era più di tanto. Cioè, se questa cosa devo lasciare il nome, c'è un booster, che cacchio si narra, attaccato, voi da voi, non vada se ti fare più l'avviamento, che è attaccato questa corrente, cioè non ha pure bisogno che mi dove, non ha poco comprato, me lo va a ripiegare. Infatti, la legge di tutti mi vado all'11, capire si scuola in cui mi c'era il mostro lunga, quindi mi ho fatto pensare che mi ho fatto la salute da scuola, e se no, e se a dove il babbo, cioè a dove il babbo, ma a fare questa cosa di strada, no, non era mica dopo l'11, e con l'ego da lunga entra in scuola, con l'ego e la che vado con l'attrezzo, la sincue, a poi da Deo, Dimo, lo manda al suo solo. A poi c'è il capo da solo che io ti mando, che devi stare fuori, che fa freddo, e non come lo voglio sacca batteria, venuto. se io a te su quello che vi dire qua non le ho staccate le batterie e le ha per staccare la devo compreso mi piace Puma che era condivisato Puma con noi che era un guidare poi Puma era condivisato in tutta la manutenzione l'ho fatto vedere trovare di officina e di manutenzione di gare e di controllo di gare fatto lo carichi su Puma non usa compreso io abbiamo convinto la batteria per staccare sono andato mi devo piegare sura e non sta più chiuso non ha parlato nulla perché voi fino a prodotti su carattere che hanno proprio sono un cane per noi tu mi desegaimo però questa cosa mi dà fastidio come in cui tocca di fare questa operazione guardate questa attrezzatura che sta da chi carica da ad una carica rapida un disco di sinarda e nulla perché devo andare alle batterie del cuore ma anche la picata in noi in garagino pallube e tutto ciò che ti piace e niente che devo fare con questa apparecchiatura che ho provato in cui e per il salute a sicola e gli è venuto una roba enorme se mi può tornare che se ha su un metro qui è su cui via pensieri perché non lo conosco di nulla ripeto questa cosa ripeto questo mi siete applicato una cosa tra ossa e ti può tornare accanto è un baracchino di questa prestazione base che con una maneggia l'ha attaccato quella cosa che ha fuggito in moto non lo devo fare il perché l'ha preso impacchettato il 9 quando l'ha provato proprio può evitare questo totale se però non deve succedere più non deve succedere perché sono male che è controllato guarda infatti non ho la scuola bus puro quando io hanno fatto una cosa mi piango che per trovare a partire si sono già cosa a partire perché sulle nudi mi lo pare gai ti della etta l'intera poi sulle nudi su umido tutta quella bella cosa che mi è collegata della etta la terra proposta ma dopo di una volta non mi sa tre se trasporti il suo camion no? Che lo trovo io che ho autorizzato come te lo carica ieri che ne parlare con a piazzare pronto sono buoni mini a sotto ufficio sono andato in passiera come lo siamo in noi che a noi sono rientrati ieri e mi sono cammino di consegna tu che sono stata a batteria e fili di cibo e fili di cibo adesso già non dimenticate di senza stacca batteria che poi si trova una sorpresa più mandato un su fattore di lavoro che poi noi il camion non parte sono come si chiama poi uno con l'imbicinito niente più e fili di cibo figurati i dietro se la batteria non se ne parla dico gli altri un'altra cosa che devo fare su una polità però ha provato qualche volta ha provato invece di starsi grattandosi mi chiami ma io che andiamo nulla me la osa non mi arrabbiato di noi comunque però io ho usato ha provato ma io ho giurato che in questa patata me lo pone a posto in garage nulla ognuno che sarà a sacciotta sua da noi e dominare di noi come questa volta io la sto comparando proprio voi pittare cara la chiuda carica non fa canto a per la batteria in un attimo la brisola e che come qua lui si stanno rientro dopo su capo pronto a un classe rubiato sono tutti che manca metro che la rodo di questa in questa volta di giro questa bambina e che mi ha fatto fare delle cose elettriche che vado questa gente che vado e troviamo fino alla sala batteria di Gabriga, i suoi leggetti, su una legge sul giornale, la lata 3, se battono fino a punti nulla, e da morto. Non deve trovare a capitano il suggere, usava la proporabino, capito, decido un viaggio, non parti di figura parele. Non dico che poi a un anno di appena la pizza giù, cioè non per attacco lo vuole di morto. La debita di stanza, figlio, autoprova a farlo partire. E poi mi ha dato male le batterie che con la polizia non le avevo scollegate. Cadeo Dio mi ha fatto il negozio, non mi va più vicino dopo una, ho preso. Ma poi dopo le 8 me li attacchi e lo metti in moto. E dopo è andato, però poi me ne andava così dare. Non ne ho attaccato una che va a batterie. Un batia, devi attaccare un morsetto, mi vino, un morsetto. Batteria una me devo cambiare su mese luglio, me devo farò a lattera, però su una luglio io in giro e partia subito, e se vai se ne parla, per un corso sulle nozze, vinto, ho preso, me c'ha quello stacca parte automatico, non dico andare, c'ha il teleruttore che stacca automaticamente. Non ne sono sicuro, però la batteria poi è a Siro ne parla. Dice, non lo dobbiamo poveri molto, avete già fatto la Juve su Bulma. E là che quello mi dice cosa, quello mi mette la faccia dietro, poi di muro, sono di Valliene proprio, non posso arruinare, sarà che si siede la veranda, là che il fumo, ha provato un faraghitto, di deve sacchitto, sono andato quando visto non si siete in cue, sono andato la moto via al minimo, ho mantenuto via, che siccome dice che ha subito, quando poi la di molto, dice sì, questo si siete a fare una veranda, no, questa mulere, ho la via prima, molto le brinca, ce l'era io, da qua che era, questa nuova di fumo, si caia da tanti che da non caricare già Saria per assaggiarla già e poi mi sempre ammazza candela un culo infatti no ma io dico perché mi pregunto questo soccato non deve non rapporto di non mica pagattare con questo tuo microfono per andare a girare buia a buia la pagattare devo sapere da Claudio ma ora la Lucherese che non due ne infatti porta io prese na io. Scusate, io non ho pagato per quasi niente, dove è stato invece da pinto, a tenere sul fratello duoso, non venne a pure, ma dopo, io non ho toccato nulla, proprio in quei garage, e non è come se lei ha questa cosa, di non cosa, che deve venire invece da pinto, che io dico, che non esiste più nel manco. Compreso, come ho apportato ogni cosa, fino a se ho comprato tutti gli affidi, e compreso, no, alza, bullone, tutto mi si adattare, tutto mi si... Io mi potevo andare a sicuro prima che potevo odiare tutto. No, ma la famiglia è manzano, come è attaccata la benzina e sono male, sono capito da compagnie, il suo gruppo, compreso. Perché in quel gruppo questa benzina, poi la di là, poi la polizia posto. Come Romano, manzano, mi è poverissimo anche la voce che da poco, è come se fino a un porto enere a nessun luogo, te, mi ha fatto veramente viaggiare, sono rimasto e ti ringrazio per l'invito, mi vino. Però non ha fatto bene, mi tappano per lui di noi, c'è anche zero, si vede sopra questa timinea, poi c'erano da compare, non penso che non mi chiudare nessuno. Comunque però, non devo muovere a posto, io se mi muovo fino a alla sala giù di taglio, poi se un bene stesso vivo, si vuole non lo niente, più fare che nulla. E te fai di cuore. Pronto. Ok, con una mammica di ambita, me ne vado a fare il più nome. Buonasera. E te fai di cuore. Buongiorno. Buonasera, e ti dici come ne? Dica i mattezzi, mi giova, e te siamo combinenti di questa malattia che non vedo ogni dia a questa radio, con cui prendi di nuovo. Gli ampi? E te ne rompi tu. Ok, ok, perfetto. Non va, mi intende se? Che io intendo? Questa sempre ce ne cai bacio. Ma mi intende se? Capri? Ma me ne ho sentito nemmeno. Capri? Ma pari due, Capri? Che cosa è successo, Capri? Io vai, no, che si è ma cosa parlo la sala fara 519 che mi metti niente? La me, tua me ne interessa, da. So che mi chiedo se perché non fossi sono i PL da Capodea, e poi che vai, un attimo. Ok. E lui, candi tua sapavetta. Due più pulito, no, giù a me da mancare cosa, compreso, come intanto so te, come l'avevi convinti in verrati, che tu è comico, come funziona, ma no, mi mando giù a mancare il microfono, vai, e lì che dite più nu, mi lascia da qui a più male le radio, cioè sul microfono c'è un uedi di chi si intende le radio e chi il microfono lo usende, sul microfono chiappo, di chi di chi è chi parla dall'apparecchiatura e compreso, però non più di tanto, voi se su troppo i troppi a me più. E come dirà una cosa, meno, quando io con due capo di due no. Mira che mi canale. A pattata arriva io, Dio mio. Fino a questa macchina, a pattata arriva io da sul baracchino. A Sasinara arriva io da... compreso, e non ho fatto quasi un bel film. Questo commento orale per il vicino, vedi quanto sono baracchino, so. E avevo un modulatore, un assommatore, che... Il fatto del sistema che ho fatto di questo 4-2, c'è un trasformatore di modulazione che fa che l'invidia a baracchino, cioè. Infatti i baracchini a te non mi vanno in più, come te lo primo, mi te uso la pabbicio, mi dico, te uso so, tipo pregine, se non vale meno di meno vedi, uso un trasformatore, e bescia di radio, che una volta sono andato a fora, da fuori a un domo, sapevo di mamma di cura piscolare, di piaghia, la mi bugiamo e mi ripulito, e beh, tirato di lui, che si intendia bene, che fino a che la microfono amplificato, Ah, mi intende? Sì, a Giova. Niente da fare, no, non da po'. Nada de nada, non da po' use. PL519. Ma lì cambia l'alimentazione, in un piedino cambia l'alimentazione, sembra, no? Vabbè, quelle lavorano con una tensione diversa. Le tue sono a 6 volte le L, capito? Sì, cambia l'alimentazione, no, non c'è problema, Giova. Non ti preoccupi più di tanto, capito, no, sono come te la hai, una mossa ben picco, si capita, una, perché c'è una ragione, c'ho più, c'ho già visto, mi servono due valvole, gli altri ce li ho da rimontare, e quello pompa, Ok, ma non fa problema, non fa dai te, non fa, calma da essere, ci pagare, non credi più. Sì, ma che usa proprio la raccolta, che è un po' fattimitata, Giovanna, è un po' fattimitata, ma sarà di questa valvola, con una di questa valvola, con questo quattro di progetto, che è un po' fattimitata. Questo si li dà a 40 watt, bessi di un quasi 400, so. Compreso, con quasi 400, non vado a ne fuire, ma con una potenza tipo 30, con 20, all'inizio dopo 20, montate dovuto la lesione ona, che se sei già attorno a sottragento, 250, 230, senti cura. Ok, vabbè, quello va da 600 watt in AM, lo capito venuto da 600 watt. Pagare andare, cosa c'è L519? Via, le due valvole mi mancano, non riesco a reperire due valvole 519. Ma e il telinare? Della Zettaggi 2001 è. Pure a chilo tanto, guardi non avrai 9, pure a chilo. Pure a chilo che avete più buone in valvola. Ma non ti sei fatto questa domanda, voi ti mancano, fra sono bugiate. Compreso, per questo lineare non riservi da nulla, sta sempre bruciando le valvole, ricardende, fa che ricardire le cose, sta a placca se non vuole micidiare, lascia tutti in alto. E 600 watt dai, al suo, da fare che paga casino questo lineare. Quindi Giovanni mi dici che si può modificare facendolo con la valvola in ceramica, così? Sì, basta una, ma ha fatto bene però, non questo che vuoi che diano. Ma per carità, ma le fammelo davanti, no, non ne voglio sentire, giocaci pure, ma no, non ne voglio neanche sentire, no. Oh, no, no, no, già visto, già, vivo 2001, 131, 130, 506, tutto quanto, tutto da fare, non desidero. Ok, e dunque lì si può recuperare il trasformatore compreso, quindi anche facendo una valvola anche il contenitore può diventare più ridotto, no? Il contenitore si recupera e basta, lì poi c'è la lavora accidente, abbastanza, le variabili vanno sostituite perché sta porcheria, quel circuito stampato sparisce, al trasformatore siccome mi serve la 12 volt per quell'altro tipo di valvola alimentata da 12 volt il filamento, quindi devo aggiungere qualche spira, ma quella gliela aggiungo io al trasformatore. Sì, no, no, vediamo un po' più là, me lo guardare, capito, cioè una roba che sia sofisticata, capito, però come dicevo tu, io uso sempre la sua valvola, mi metti un po', cioè io lo volevo anche mettere a posto, però se dici che montando le valvole sue si bruciano, hai capito, è una cosa inutile, quindi partono di placca, partono, si arrossano, poi si arrossano, magari se ne arrossa una e le altre funzionano e rimangono mezzo quello ciliegia, ma può validare un finale sbagliatissimo quello, scusa, no, poi prova, metti, montale, fai la prova, quando ho PG portante ti rendi conto. Stavo dicendo, io, ma quindi ma con 131 è buono come lineare? Beh, 131 è meglio da un certo punto di vista, perché è monovalvola, capito? Gli dai pochi watt e lavora molto meglio del 2001, alla fine, per poco, per essere con una valvola lo supera in wattaggio. Sono accoppiamenti fatti male, capito? Cioè, quella è roba commerciale, ma commerciale davvero per me. Come dicevo, ma il Jumbo, lo Speedy della CT lo conosci? No, siamo sempre lì, c'era lo Speedy. Lo Speedy era la valvola. Sì, ma lo puoi controllare in potenza quello? Lo Speedy, al massimo un centinaio, non di più. Capito? Ma il problema non è... Allora, i problemi delle lineari così, fatti a capucchia, lo sai cosa sono? Allora, contatti delle linee che si inchiodano, valvole che partono, rosi, rumori, bordelli, rossa tutto andare, ma più di grande che... Infatti, di nuovo su dove comandesse, però crescende però, si infatti in più ti durava, già me lo posso immaginare. No, quello che andavo, ho comprato il progetto, mi aveva affascinato io qua, mi aveva affascinato, guarda, c'ero meglio mai io delle cuccia a valvola. No, tranquillo, e ce n'è anche superiori, ma questa è una delle ultime. Naturalmente, se faccio delle modifiche, per comunemente non uso i timer li uso quando uno mi chiede roba sofisticata. Se uno mi dice fammelo con i timer, allora sale il prezzo. Se invece lo faccio manuale, allora metto una serie di interruttori per gli scambi e basta, è uguale, capito? Tanto non è che il timer migliora la qualità. Tutto lì, infatti l'hai visto che quello schema è spaventoso, è praticamente spaventoso, perché ha due timer temporizzati in un certo modo, regolabili anche le temporizzazioni, ha i vari trasformatori messi come sono messi, tutte le protezioni se in caso ci siano avarie, dai. Come dicevo, Giovanni, più potente di quello che puoi fare anche, no? Sì, basta accoppiarne un paio di quelle, di quei tubi lì a voglia e rende tutto andare, ma non ha senso, ma credimi, non ha senso, non serve a nulla, perché non serve a nulla, meglio andare con quella potenza lì, perché poi da 200, 250 devi arrivare a 1000 rotti per vedersi un po' di differenza. Infatti, cioè inizia a andare quando supera quei battaggi lì, la roba, perché... Tante volte che sto uscendo ma che comunque sono cosa e ti dà due santiaghi, quindi molte volte due santiaghi li recuperi anche alzando l'antenna, cambiando anche di da dove è messa, hai capito? Perché molte volte c'è quello, mi domani. Io lo faccio per le robuste della modulazione, perché questo è un triodo e lavora come lavora. Ecco perché poi non li spingo molto, proprio per avere il massimo del corpo senza distorsioni. A me mi interessa quello, io privilegio sempre l'emissione a confronto della potenza, non ho mai fatto un gare di potenza, la farò mai, c'entra niente, non serve a nulla, capito? Non serve a nulla uscire male per avere più watt, serve proprio niente. Un criasso che apparato c'ha inserito? Sempre il patch sto usando, no? Sto usando sempre il patch. Sì, è perfetto, arriva una bella modulazione. Se non li prendi, non lo posso immaginare, hai capito? No, prima era, diciamo, quando c'era il boom proprio, tutti noi muovono sempre, ma io ne uno, diciamo, autocostruito, che cioè, manca il trasformatore solo, era una fotobetta verde, due valvole, però erano due valvole a 12 posi, cioè, però sul trasformatore poi ne erano impogato e niente, è difficile da rimetterlo in sesto. Questo petta verde c'ha lo schema, perché l'ha autocostruito lui, però mai chissà, lui adesso è vecchio, penso che il laboratorio ci sia ancora. Ti dico che ci ha dato ottime soddisfazioni negli anni 70, più di miei lineari comprati e giocati. Ci credo, perché no? Ci credo. Però io sto parlando di altro tipo di tecnologie di qualità. Io giustamente ho i miei accordi. accorgimenti, lavoro con tensioni molto superiori a come lavoravano prima. Io uso, faccio uso di duplicatori, triplicatori, quadruplicatori di tensione, uso trasformatori americani, non, la mondezza a me non mi piace, non è una scienza da fare. Me li giro come voglio, in poche parole. Ok, no, no, si sente Giovanni, si sente. E a livello di, come si chiama, dei microfoni amplificati, e niente di quella roba lì, sai? Sì, ho il mio kit, ho il mio tipo di preamplificatore, ne ho praticamente, di quei circuitini lì ne ho un paio pronti, uno con due N di quelli piccolini, capito, quei transistorini 2211 mi pare che era, uno con quello e uno con un circuito integrato, il TL082, che lavora con una batteria da 9 volt. Tutti e due riusciti perfettamente, si sentono benissimo, vanno bene anche quelli. A voi, a Eme, ho progetti in BF, lavora tutto andare. Io diciamo che c'ho una serviera, ma mette a posto il circuito di amplificazione, questo me l'hanno dato smontato, che qua il circuito non c'è, lui come di noi lo collegare, perché questo è montato tutto, vuole verniciare, lui mi lo confondo la carcassa e io lo so dove metterci le mani. Ma è positivo, viste vogliono quelle cose, vogliono viste. Capito? No, ma secondo me è una buona sezione finale, va bene, sempre che non ci bisogno, 1000 watt, 1700, ma che cosa, bastano 250, 200 watt, io ne uso mediamente 60, con questo esempio, no? Io lo sto pilotando con un paio di watt circa, occhio croce, un paio di watt, mi pare che so, bene, me ne saranno 60, aspetta, 60 qualcosa, 60 e passo. Ok. Cioè non mi serve altro, ma che cosa? Cosa devo spingere? Dove devo andare? Sì, se lo aumenti di, come si chiama, prova adesso, se manco a 7, provo a aumentarlo a vedere. E come lo aumento che non ho regolatore di watt qua? Ora, adesso sta scaldando un pochino. Ma un pochino, non calda mai, questi rimangono fritti, praticamente ghiacciato, scalda meno di un transistor quella valvola. La ventilazione manco si sente, la ventilazione è giocata con tensioni del vento, che sono a 220, ma stanno lavorando esattamente a 136 volt. Ok, hai tene più numi, e bene in bella. Ok, ma ti arriva bene qui, è proprio pulita, non la sono pulita, non c'è distorsione, niente da dire, Giovanni. Vabbè, sono apparati controllati, no? Ecco. Vedete, questo lineare, se lo vedi dentro, ci fa 20. Cioè, questo, ha una scheda dove c'è il duplicatore che da parte da una tensione in base di 525 volte arriva a 1536, rettificata ovviamente comprendendo anche il livello della continua di iniziale, ma arriva a 1536, posso far arrivare anche a quasi 3,5 kV, ma non avrebbe senso. Non serve, tirare le valvole così, tanto per far vedere che esci con 1200-1500 watt, è una stupidaggine. Se vuoi a quella valvola gli faccio rendere un kilowatt, ma il senso qual è? Sostanzialmente è come avere una macchina che va a 300 km ora e camminare continuamente a 298, non serve a nulla. Ok, sì sì, è molto una potenza. Per modulare qui locale, ho sempre detto che non serve a nulla proprio il paragone, che uno deve andare a fare la lettera, che ci può andare benissimo con una bicicletta, non con un tire, quello lì è la logica, è quella, e riprendi più. La c'hai, l'RG8 c'hai? Io ho l'RG8, sempre, è lo stesso cavo che avevo 40 anni fa, io qua. L'RG8 c'ho? No, il 58 è anche l'RG8, per la discesa della mantova c'è l'RG8, sempre quello, perché l'ha mai toccato, la mantova l'avevo protetta dall'inizio ed è sempre lì, è sempre quando uno utilizza un lineare non è che lo deve fare con scoppi di combattimento o che deve arrivare al Polo Nord, tanto non ci arriva lo stesso se non c'è propagazione. Lo deve fare con lo scopo di migliorare l'emissione e scopo di lavori radioelettrici, cioè intendo dire che serve per la sperimentazione e per accrescere la conoscenza. Lasciando perdere adesso quello che è il mio lavoro e quello che è la mia conoscenza, che sicuramente non ha che niente a che vedere con gli ubisti, ma neanche manco a dirlo, però dico, fondamentalmente io credo di dare il mio contributo in questo modo, ecco, è questo che voglio dire, voglio manifestare questo, cioè è una cosa benevola, non impostata così. E fa piacere quando l'emissione è controllata, molto più, e soprattutto quando uno ha la condizione di realizzare, di progettare un apparato, una macchina, qualsiasi sia, che ne conosce il principio di funzionamento e con una condizione di causa la mette fuori e insomma spiega quello che sa, anche perché io ci vivo da queste cose, per cui. Sì, infatti, continuava proprio. Mi ha affascinato, quando ho visto quel progetto sono rimasto affascinato da quello, non l'avevo mai visto prima, in tanti anni che sono in frequenza, mai una roba del genere ho visto, riprendi Pino. Ma adesso cambio Pino, su, no, è libero, e beh, tu non ti sei abitato dall'alternatore, della lampadina, e te ne vale. Ecco, che capita, non sono, io te l'ho detto Pino, io... le batterie ne ho cambiato una, cosa è stata del pullman, però adesso fai conto che ci voglia l'altra, un peso a tornare un po' lì molto ogni tanto, come che se ne azzara mi davo a fare il scudotto pure che è nuova, però la batteria è capolini mi davo a non si recupera, dai, dove prendi giù qua. Io trotto, bisogna vedere, ma caspita, quella non è che era una cosa così complicata, ovviamente ce ne sono bravi, c'è Torrecano, Assassari che è uno dei migliori, bravissimo elettrauto per carità, specializzato nell'elettronica dell'auto, alle palle quadre, e via, tutto lì. Sì, Capri, ti capisco che ti ha affascinato perché quelle sono cose complesse, anche più di certi lineari di alta potenza, perché quello che conta è la struttura tecnica e tutte le posizioni intrinseche, no? Che sono state realizzate appunto con le varie circuitazioni, tutte studiate da me, progettate, realizzate da me, non c'è niente, infatti è pubblicato, quindi il miglior modo per proteggerlo è per averlo, cioè per appunto mostrare che è una cosa, come si dice, è una cosa personale, una creazione mia è quella di pubblicarlo, quindi non ci sono problemi. E via, se vai avanti poi vedrai il frequenzimetro del Drake, come l'ho riparato, vedrai tutti i vari allineamenti. No, perché anche una cosa più che posso dire, io ce l'ho e tu non ce l'hai, ho capito, non è una cosa che va uno e la compra in negozi, quello è il bello. No, ma a prescindere, non è questione, io non ce l'ho, non hai capito, sono altre cose che fanno la qualità di quegli apparati, e quello è che conta, uno accende e ce l'ha una vita, non sta sempre lì, no? Cioè, solo la precisione del delay è encomiabile, e via. Poi ultimamente mi stanno queste delle Giannoni che sono delle favole, i variabili sono tutti Collins, cioè non ho capito, tutto lì. Ho detto, vai avanti con la lettura, arriva sino a dove c'è il drink. Adesso non ce l'ho il computer che ce l'ho giù, non l'ho salito, hai capito, c'è il portatino, non l'ho salito, stavo dicendo, ma Giannoni era di un attore anche. Non lo so, guarda, non gliel'ho mai chiesto. A me mi sembra proprio di sì, perché tanto tempo fa, quando c'avevo il DC312, come dicevi tu, che poi l'ho regalato a Claudio, e ascoltavo da quel che si chiama, lo chiamo Silvano, la voce era quella che io ho parlato per telefono, lo so, perché io non potevo parlare, hai capito? Però sicuramente è radioamatore anche Silvano Giannoni. Potrebbe essere. Non guarda, è delle nostre stupidaggini, non lo so, non ci scommetto. Però potrebbe, perché anche a me mi fece accendere una volta una cosa del genere, ma vabbè, comunque, sono problemi. Io, ripeto a dire, ho una mia scuola di pensiero, un mio modo di interpretare la realizzazione. Ovviamente non mi reinvento nulla, perché non mi piace reinventarmi l'elettronica, ma bensì la applico con i principi già esistenti sicuramente, poi ci sono i miei brevetti, se vai ancora avanti vedrai un test match per valore brevettato. Quello non esiste tutto il mondo, non esiste proprio. Fatti un giro, ti rendi conto e vedi se esiste una cosa del genere. Quello sta sui coglioni a parecchie aziende però, proprio perché una volta che hanno visto la realizzazione non lo possono duplicare, perché se lo duplicano li denuncio tutti, anche se arrivano dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra, non mi interessa. Immediatamente ci metto 47 avvocati, sono ben avvisati, ho avvisato anche Electronic Practices che ha copiato qualcosa, ma è andata, va bene, ha fatto uno scatolone, ma comunque. E niente, io avviso, cioè non, tu guarda che vedi delle cose belle, in particolare quel test match digitale. Sì, adesso c'è il foto, però guardo molto spesso e volentieri queste cose. Ma trovato se lo provo con Pinochet, a Lugano, non lo denuncia da noi che fanno. Ma ci vorrebbe tanto di pazienza e niente, mettersi a spiegare il principio di funzionamento, cercare di farvelo capire e poi piano piano si può realizzare, perché no? Le persone non nascono imparate. Ovviamente se uno parte con la testa nel sacco facciamo un casino, con rischio di fulminarsi. E ma magari a noi non sapere, siamo un capistrale, non vede nessuno, un gai e più. Ok, ciò fa, più. L'importante diciamo, no, metti una passione per la offerta di Juve, se uno proprio si è appassionato, arrivi, compreso, non è che io non ripropino, cioè per la offerta la passione di Juve è puro, e ti apre, capito, arrivare, se lo ti spiega a riuscirci, tutto il punto lo devo vedere anche da cosa a cosa. Ok, già, ma stavo dicendo, io ho lavorato tanto a Itri, ma non ti sei mai mosso da Itri, forse ci conosciamo anche. Non posso dirtelo. Io vado fuori molto con Semeralda, Urbia di Stano, ultimamente ero molto a Sassari. Qualche volta mi è capitato, qualche volta ho parecchi clienti, Alghero. Non so come descrivere tra la cosa. E io sto parlando, ci ho lavorato nell'83. 83. E vabbè, è 32 anni fa, no, è difficile. Lo sai con chi ho lavorato io? Allora, con la Mivar qui a Itri. Ho lavorato con la Mivar, infatti confondevano a me con Giovanni Scarpa. Non so se ti ricordi il laboratorio di Giovanni Scarpa, di Gianni Scarpa, veramente. Che sono Giovanni e Gianni. Non so se ti ricordi. E devo sapere, mi metto Lombardi. Allora ce li avevo sì gli apparati, ce li avevo nella Calbur, piazzato un SBE, capito? Un Catalina venne dai canali, hai capito? All'epoca, perché il pace l'avevo prestato a uno quando mi lavoravo, poi non si dia più, nel tempo io quel baracchino, un Catalina che ce l'ho ancora qui, che non funziona più. E così, però diciamo quando ero entri allora c'avevo la mano mia, capito, avevo trafficato sulla fisarmonica e ho notato Dottore Vina, lo conosci a Dottore? Dottore Vina, ma ecco quello che calcio fai adesso? No, quello che dipinge, lo scalpellino anche. Ma due fratelli sono? Ma uno di un morto d'incidente su grave, mi è il fratello di Gian Maria Figaro. E adesso no, Ma dottore Vintore? Non so, aveva una spider lui, una spider rossa. No. Aspetta, ma dove abitava? In un milanese, anche noi non vediamo sempre, prima avevamo preso a lavorare perché era un bravo scalpellino, era fare, dato che lavoro rosso doveva fare una tomba, e tutta con questa tracchita, va preso a lui e a Giorgio Maria Tavera, buon'anima. Se quello che sto dicendo io, cioè se quello che sto pensando io, facevo anche i quadri. Sì, lui esattamente, lui è. Abitava all'ospedale salendo a destra, è morto. Morto, è mica i nomi. Se quello lì sì, da un buon pezzo. Molto bravo come scalpellino, un artista finito, e faceva cornicioni all'interno delle case, rosoni, capito? Guarda che con Gian Maria gli ho parlato l'altro giorno col fratello mio. No, mi hanno premuto a Gian Maria, mi sembra non mi ha detto nulla Gian Maria che è morto il fratello. Sai quello che sto dicendo io, boh. Scalpellino, bravo era quello. Poi non ne conosco, cioè a meno che non sia, come sto presupponendo, un errore di persona, io ripeto, proprio quello lì che dici tu, lo posso assomigliare, a gemellare a questo qua, ma poi magari non è lui, si rischia di dire una cazzata. A me era molto Dio Maria, che lavoravamo, tutti e due le avevamo prese a lavorare. Ma lui è un tipo basso questo qui, uno che si è fatto suo, ed era bravo anche sulla fisarmonica e suona anche l'organo. No. Ehi, no, regenerazione molto vecchia, no, non è cavopiedi. E non so quanti anni ha, un 77 anni può avere. Sì, niente, ti pare. A Tisa Maria allora lo conosci il falegname? Dove conoscevo una che lavorava al comune, è possibile? Forse, No, questo è un falegname molto conosciuto, faceva scale ai tempi, era una bomba del Santiano. Guarda che Dore il figlio, quello che dopo il ponte di Brasava, Salime, così si chiama quel ponte dove c'è quell'accidente di mulino, una specie di mulino che fa la sansa. Se alzi gli occhi li vedi Dore scale in legno. Ma mi sembra che anche con la roba delle scale non mi è nuovo, è delle scale in legno. Poi conoscevo a Coso, a Sidor Sassu, che vedeva mobili, conoscevo poi lì a Itti, aspetta per appena, a Nardo Casia, a Tiusia, mi sembra che si chiamava Sebastiano, e il carrozziere che si chiamava Simula. Quello era Ciano, vabbè con Ciano siamo amici, poi, e si chiama ancora Simula, è ancora vivo. Sassu Tribrio è morto anche la moglie, Ciano, vabbè te l'ho detto, e quelli li conosco, Nardo Calvia già è vivo, l'altro giorno, roba di armi, lui trattava sempre armiere, ok, e via dicendo. E lo conoscevi il povero zio Antonio Sassu, quello che aveva fatto il sindaco qua? Sicuramente sì. Poi conosco a Luigi Riu, a Sapore Neve Pesan, Giacomo Cossu, ti ricordi che era all'ammattatoio Giacomo all'epoca? Sì, Giacomina sì. Già ho capito. Beh, compagni di caccia, ti conosci? Ma cacciare non ci faccio. E niente, voi, guarda che devi dare la sanna, conoscevo. A Coso, la sorella Veronica che è sposata con veterinario, voi che attivo anch'io. Capito, quelli che ci avevano la pizzeria, a Dottore Sanna, che era commercialista, possibile che Dottore Sanna era commercialista? Sì signore, è morto anche quello. Morto, con una persona troppo in gamba, troppo, ci avevamo trattato veramente bene ai tri, ai tri era, quando ci mandato all'impresa la terra promessa, giù qua, lo trattaiamo benissimo, mi dispiace di dottore, madonna. E poi altre persone, la Ronca, hai capito, tanti, ecco i nomi, la chiama Caledda, delle Subbar, su dottore, su marito, e tanta gente che abbiamo incontrato veramente in un paese che devo dare 10, conforme a tutti i paesi siamo stati, veramente gente ospitale. Ma per non c'è, non è che ti stai annoiando, non riprendi. Siamo fatti la baracca, ma gli hanno rubato. Tutto non farà saggio per i padri di su principale, ognuno ha un bambino a noi. Beh, ti dico Giovanni, che avevamo una, come si chiama, dove mettevamo gli attrezzi con lo scaffale, piena di fini buoni, al principale gli avevo anche regalato, mi davo la pavantiera, ci avevo come tu mi era, allora la zona di Lugani, lui la stavo per quanta abbiamo iniziato la strada, tutto nuovo fra i gente, molte volte avanzava qualche fruso subito, allora di andarcene lo regalavamo a queste persone, capito? Mettere sacco di cemento, una cosa, o usava la meccanica, me la usava per le cose, e subito venivano con vini, ma vini buoni mi giova, una baracca mi dai mi si riso per assaggio, no? E a che principale che ne davamo, detto, ne avevo imbottigliato, ha detto, ti dico che se le mosca, ha detto, non è vini così, e così siamo stati bene mi giova. Ti credo, non c'è un bel esempio, ti credo. Il dottore è morto, il marito di Zia Pasqualetta. Sì, il dottore, io me lo ricordo, Zia Pasqualetta si è andata a fare al mare, e tutti amici. E però Dio Siena si trovano, Dio Siena, abitava in giù di Nardo Calvia, Nardo abitava scendendo sulla sinistra, vicino al giù del carrozziere, e Dio Siena abitava sulla destra. Non sto cercando di capire, vabbè, comunque quelli che mi hai citato molti li conosco e via. E me ci sono una lusa, non l'ha mai conosciuto tu? Chi? Conosciuto? Chi? Dimmi il nome. Giovanni Corraduzza. Magari sì. Poi ne conoscevo di quelli che lavoravano al comune di Itti, ne conoscevo due o tre decreti famiglio qua. Beh, lì c'era Garrosa, poi c'era, vabbè c'è ancora Collo, Sacchiotto, Montesinara, e già ho capito, più o meno le compagnie che frequentavi, ho capito, io, sì vabbè, sono del 67, quindi qualche cosa mi ricordo, ma io ho conosciuto, ho scritto molti, ne ho visti, come si dice, molti cadere per strada. Sì, grandi ricordi, ho dei grandi ricordi, però adesso mi dispiace, ma sì, tutto capovolto, è tutto uno schifo. No, è una bella cittadina, Itteri, e a Corso poi c'è Corso che abita Itteri, Vittorio Pedri, arrivo a 9 su una minchia. Vittorio Pedri, sto pensando, mi pare di sì. E lui lavorava a Comuna nel camion, hai capito, te crepami, mamma mia, Io quando lavoravo a Itteri rientravo, lo sai che ora? Alle 7:30 ero già in cantiere a Itteri, alle 10:30, la mamma di mamma poveretta, la procedura di Guindaia, e te mi dici Zumena che va a poi straordinario, ma vi metti pagliende, a lunghe della lampadina, che io so che tu mi era così in passo, e so che tu mi eri in passo, tutto ciò bando, fai mi sono zero, io fa. Ma allora si poteva fare, forse non per il discorso di fare bar, ma si poteva fare perché la gente era diversa. Adesso, vabbè, a parte la crisi, però è cambiata la gente, proprio la gente ha un comportamento tutto suo, no? Non sano, non se ne capisce niente. Non se ne capisce niente. Lui a chi conoscevo? Al signor Romano Zelletrauto, signor Romano, ecco. Con Romano siamo amici. Tuttora gli faccio assistenza ai PC e mi delega più di un impianto di quei rimorchi lì. Sì, beh, Romano, tranquillone. La volta c'era il solito via cugina, no? C'era quello sobrettumiera, lì, per tornare fino al discorso delle batterie, se non so come cavolo siamo andati, se vi avevo lasciato qualche cosa accesa, che con, insomma, domani mattina ho parlato, prestami la batteria del cavo. No, sono impegnato per non partire subito, lui proprio non ci voleva sempre col culo sul cambio, se non un 160 Fiat di quelle. E niente, non andare lui, non so dove, così proprio non stare, perché se rimaneva molti cantieri, molte volte ce lo fa dare una mano, no? E va bene. Ho detto dammi, ma che devi dare il primo qua perché di gallura, ho detto dammi la chiave, va bene, a Puglia di cosa mi dà questa chiave lunga, Giovanni. Non sai cosa succede, levo la batteria, ho messo in moto il mio mezzo, hai capito, perché avvicinare il cambio, quel cambio veniva male, perché ci avevo fatto una specie di recinto, il cambio lì non c'entrava, beh, quando gliela stavo riattaccando, io va, ma non so cosa è successo, ma è vero che mi ha dato la chiave lunga, ho montato prima e poi il negativo, che ho fatto un grosso sbaglio, beh, ho toccato la chiave, stavo stringendo il positivo sul montante del camion, ho montato, ho toccato e ha sciolto i puli della batteria, sciolto. Poi, dobbiamo andare a tenere un lente, grazie, lo so che fa che casino, guarda, fa cosa gare. E dove va andare? Io ho fatto questa cannella a trovare una curiosa macchina da signor Romano immediatamente. Lo sai cosa ha fatto signor Romano? Ha preso una boccola e ci abbiamo rifatto i muri, ha sciolto del piombo con questo salvatore. Insomma, l'abbiamo messo a posto, poi lo pigliavamo. Perché lui in Gadurisu diceva sempre, quando si è rotta, un muro mi è piazzato, poi da quella cosa lì è diventata la ciombra dell'impresa. Ogni di lui fai bisogno a me, insomma, quel signor Romano mi ha salvato, no perché il cambio si dormiva, facevo altri cantieri, il principale si è fisciato dalle risate, ho detto adesso, ho detto proprio la chiave, la più lunga, ho detto mi ha dato, come un figlio mi tutta la viene a trovarmi, sicuro, insomma, è così, riprendi più. Io picciotto figlio, no, cioè, quando c'avevo, quando ero lì c'avevo, perché me ne è uscito l'allarma, e non l'allarma è uscito nel 79, è capito nell'83, 83, giovane, c'avevo 23 anni, mi manco 24 anni, il gioco a caso, no, ma lui, però, no, sempre il nuovo Temeroni, ho smontato, gli ho dato la pressione, Nimi, in cantiere una volta, l'autobettumiera. Perché meccanica me la prendiamo bene, niente, io ho proprio quella chiave, cioè però io l'ho toccata, Giovanni, perché sono per impressato, un pelo, ho la mia impresa, è stato per montare, madonna, tutto sono giocare, le risate, ecco la pilularo, mi ha fatto in ammettere, appunto, ma, e per gli altri poi, tutto quanto, quindi, a Concheino, tanto io non ho ancora più da Ian e manco, però il lavoro facevamo bene. Però era come si chiama, andavamo, eravamo fuori casa e ci divertivamo, io qua. Lo so. Dai, purtroppo quei tempi non tornano più, hai capito più? Ormai siamo pigliando, non la salita, prima a raggiungere il sedale che non mi aveva fatto e non veniva mai sotto che ho fatto, adesso invece stiamo andando in discesa proprio alla vecchiaia e più non sono preso e quindi passano, manco te ne accorgi quando passa il tempo e ok, riprendi più la conosci qualche cosa tu anche toccando mi sale da mie mi pare di su mese di ottobre e ho già chiamato la guida, adesso sto lavorando, all'estate c'ho più tempo di farlo, lo facciamo in estate, vado, perché tu giro Michele Pinù. No, non esame, bisogna frequentare questo corso, una scuola guida che sia autorizzata a fare questi corsi e niente, non so quante ore sono, ma per l'estate, ma no, io a 50 3-4 anni devo andare a fare questi corsi adesso, ma te li immagini dove va? Quando c'è vu, c'è vu, ti che ne è? Amici, bocca e le... È un casino veramente, non per i soldi, dico, perché se vuole mi dico, lo so cos'è, che controllano anche a campione, fanno i controlli se uno frequenta i corsi, il campione deve 300 euro, vuole, gli dico, se ne rapida, ha preso la patente, è un 37 anni, c'è la patente, adesso lo devo andare io a mi rapinare, sa conca, dove a stare, che mi trovo, però devi frequentare, io vedo, vengo con i soldi, però ho detto, tu preso qua comunicato, io ho anche una licenza di trasporto nazionale e internazionale, sono registrato in tutti i corsi del mercato europeo, hai capito, dell'autotrasporto, iscrizione a REN, tutto quello che e tu a me adesso, cioè, non puoi fare uno che inizia, beh, ma sai cosa, perché in casa nelle scuola guida e altra cosa non bala, io la patente ce l'ho, su cucinato, tutte le licenze, perché ho fatto un esame per le licenze, un anno di scuola a Cagliari, poi ho fatto gli esami per il diploma, e poi dovrebbe andare ogni tanto a rinnovare questa cosa, sigare 300 euro a proprio, ti lo regalo. No, perché nella testa mia ormai, non so cosa ne pensi, ogni cosa stasera sono attorno in corsi, si infuria per con il telco della roba del bisogno dei canali, che non si, quanto io rientro, tu mi dico, questa cosa può essere, non da uno che sta per una cosa, sai, la fumo se non piega sta macchina, non c'è il Mercedes Station, che abbiamo, ma poi se non piega sta macchina, perché è contro tuo, e l'altro lo stesso, stava girando, direi montare moto, se no, poi no, non si montano la tua, trovo il canale, può essere pulito, mi capo, ci ha morto le portate, mia, ma l'uomo qui è comodo era per casino loro, no, non mi va bene. Hai capito, più che la conca mia è piena, io avevo questa cosa da fare, figurati come devo, che devo andare, devo la chiedere in cogliara, non devo andare che ho fatto, ma è cari mie, e chi vuole mi dice sono l'uomo, come te la rubare, e mi rompe il suo bonale, mi dà anche fastidio, mi hai capito, più. E poi, non è che magari ti puoi mettere d'accordo, ecco, non è che bisogno, fanno i controlli alla campione, se non ti trovano lì ti creano problemi, hai capito, però stanno arrivando, più. Sarebbe non quando sono vecchio non le voglio più, ma la macchina voglio, nulla. Quando ci arrivare una prima intervenzione che mi viene una fila, una pensione di invalidare, una cosa che con mutere mia, una vez che viene una cosa io sono curata per le mie voglio, ma poi anche salute, che vi capo bene, dottor, duro si da leare in quel luogo, oppure si dato su uno, può volerti a guidare, se non mi interessa la figlio mio, però non mi dà punti più nulla, perché è troppa cosa in aria, tutta cosa in aria, poi non si sa dove si va a finire, è come dire io la patente con le CQC, hai te che devo andare torre in cui a trovare, ti mi dà punti, signori con guidare, con pagare, con presuccioli commercialista, e se mi dà punti devo dire questo modale che non muovete, gira, ma con le raiana più vicino, lo riprendi dopo. Se no come fanno i pulizi a prendere 18.000 euro di paga base e 30.000 euro al mese con pizzo? Va bene, proseguite pure, io mollo che adesso devo fare delle cose abbastanza importanti e quindi mi devo preparare per domani, perché poi se no mi dimentico quello che devo fare. Ciao Pinuccio, ciao lì, apri due. Ci riascoltiamo alle prossime, buon proseguimento. Fate per le cusce, alle prossime mie, riprendi i capri, ascolti fino alla linea, vado via, ciao. Ok, anche io ho girato la testa all'orologio, sono le 11:10, no, che domani non mi trattengo a letto, che inizio a prepararmi i mesi per lunedì, hai capito, e niente, ne ha mancato un po' garaggi, là, fino a... se a smistare dottor questa bulloneria o tu sa ancora la misura però non dopo mi sa da fare una cosa che pure l'occhio me la leono hai capito e niente io qua ti saluto buon tutto buon QRT e domani ci risentiamo ancora se hai capito la mia faccio io sono, quando sono in casa che non sono molto impegnato a lavoro mi affaccio sempre e ciao, prima allora io chiudo perché no, è tardi, hai capito il disturbo, anche adesso tra poco sono a letto mio figlio, le camere sono le vicine, è la voce di bomba, che è una bellezza. E allora Pino, buon gioco domani, ti ringrazio di nuovo per l'invito, Pino, sarà per un'altra volta, guarda, sono molto impegnato, perché se mi destinato primo di suo periodo in vacanza, mi lui devo rientrare e devo essere pronto, hai capito, ad avviare di tutto e hai capito, finire quella roba lì con un madre che da voi la prossima ragazzi, mi sembra per piegato, è come un desena che si entrega in aria, hai capito? Deve essere tutto ok. Riprendi più. Di nuovo Ali che ha tu un'idea che in questa cosa e tu non hai un'idea, non è un'idea. Capito, prima era partito da mattina e si faceva mattina e ci mi sono divertito, non posso dire che non mi sono divertito più, però sempre quando si andare, si rientra io a San Bartolo è una cosa, via parte in attivaglio e mai una via, poi vedi tu, ecco, poi io vedo una via, mi intendo male, una, due, tre, e allora sui mesi c'avevo una specie di, io non so, passavo una via del disco, a pure di sballottarmi nei cantieri e il giorno di è bloccato, allora sì, mi fermavo, però a me si è mancato il minuto, non sbaglio, come gli anni imbriachere, so cosa, idea mai, gusto, hai capito, perché mi sono divertito in queste cose così, che non è un'idea, però proprio duro e se... anche a mia moglie la che mi terrò una blocca, cioè non parlo perché ho queste cose da ultimare, da fine tutti i miei anni, mi non ho sentito neanche a Claudio stasera, hai capito, ma un giorno organizziamo più, hai capito, facciamo un salto, vieni tu qui, lasciami mettere a posto quella roba, quindi siamo un paziente, perché anche ne ho bisogno di stare un po' con le persone qui, no, non esco, ripeto, anche per vari motivi miei, hai capito, buongiorno, buongiorno, però anche per vari motivi sono una persona, ripeto, riservatissima e niente, però se di nuovo non mancherà l'occasione di stare assieme, hai capito, dopo la ragione siamo visti poco, cioè di conoscerci anche più approfonditamente, adesso diciamo le vacanze sono finite, devo per forza prepararmi per lunedì e tutte queste belle cose, perché io poi già lo sai come lavoro, ho tutti i rientri, tutte le cose, capito? È una cosa tutto, e non è un lavoro pesante, però è tutto tagliustato, hai capito? Non ti lascia cose, hai capito? E poi mi prendo un giorno di vacanza, non è possibile, la devo fare tutta una tirata, poi fino alle vacanze di Pasqua, e niente. Il lavoro mio è fatto con il teatro e c'è il pullman fermo perché in inverno anche in Iesu ci è quello che ha fatto l'amico mio a farlo lui, nulla, è un brescio, però a qualche cosa mi piace per me, perché non vai a Sassari il CQC dove lo vado a fare io, pure siamo assieme più. Ma io ho parlato con la tua scuola che c'è in via Zanfarino dove mi ha preso tutte le patenti, mi deve dare risposta più, però se ne parla dopo che io me lo faccio in estate questa roba e più, perché prima non è possibile, e così siamo assieme, almeno al corso stiamo assieme. E poi facciamo l'amore. Dimmi, e dove eri tutto questo tempo? Buonasera. Buonasera, non ci sono a casa, già non sono svanito. E che stavo facendo roba. Mi saluto anche a Pinuccio da parte mia. La coppia Pomponio Pinu. Sì, ma la voce la segna, che è anche la voce. E allora pare io pensavo che non c'eri, hai capito? Che non ero anche a Sassa l'altro giorno, ma sono andato e tornato e niente, sono passato anche lì, però non ti ho sentito in radio, pensavo che non eri mai a Sassari. Basta chiamarmi al telefono, già lo sai, quando sali qua a Sassari, già non c'è problema, tu chiama al telefono, già se sono a casa non ci sono problemi. Ma io non ne ho il telefono tuo, Antonio, come dove ti chiamo? Basta che siamo tra loro, il telefono mio non c'è problema. No, facciamo che non c'è, davvero una parte di schiena, sa proprio che non c'è, infatti non sento più a pompogno. Comunque Pinuccetto ha detto che sente il tuo bip solo. E perché sto con te prendendo, poi non so con che mood. Certo, con che mood dentro i televisori. Devo fare uno sistema di un'antenna ancora, capito? Deve essere tanta acqua, quindi mi c'è tutto quel problema. Con 5 watt non disturbo. Se attacco 100, faccio un sacco di casino. Non posso immaginare, io altro stavo chiudendo perché non è tarda e qui salgono per dormire, io lo sai, e quindi avevo già salutato, poi ho sentito la tua, diciamo, modulazione, e ti auguro anche buon anno e niente, a noi. Vale, fatti sentire più spesso, hai capito? No? E se no io un mortorio, e prima diciamo la roba cavallo alla grande, ma spero che la roba continui. Io ogni tanto mi affaccio quando c'è gente, nel più e nel meno, hai capito? E passiamo un po' d'ora, adesso l'ora è tarda, purtroppo non posso, non stavo pensando anche lì, con mia moglie ho parlato di tramezzare, di dividere un po' la camera, però è un come si chiama, quanto si rimpicciolisce per avere uno casino per le radio, adesso vediamo un po' di fare un calcolo con le misure, vediamo, no, questa roba qui non va bene. Hai capito perché disturbo? Ma no, non mi posso mettere le cuffie perché la mia voce qui di mamma si sente chiara anche al piano di sotto. Oh, signori, ti saluto anche a te, Antonè. Ci sentiamo domani nel carro, sicuramente perché modulo, diciamo, tutta la sera di stare in radio. C'è alcune cosette da finire domani mattina e poi siamo qui. Di nuovo, Pinuti, rimetto il cambio, poi fare girare per Antonello e io in QRT è seccata da questo momento. Ciao, ciao a tutti. Ciao Pinuccetto, ciao Gianni, ci sentiamo. A domani, buonanotte a tutti e due. Ciao Antonello, ciao Pinuccio, a domani, ciao ciao.